ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Lida Mantovani di Giorgio Bassani. In una camera del piano di sotto abitava la famiglia di un infermiere dell'arcispedale Sant'Anna. Si chiamavano Mastellari e erano in tutto 6 persone, l'infermiere, sua moglie e 4 bambini. La mattina, quando scendeva con la brocca ad attingere acqua in cortile, non era raro che lei si imbattesse nella signora Mastellari. «Cos'è che fa suo marito?» le aveva domandato una volta quest'ultima. «L'operaio?» «Sì, per adesso è disoccupato, ma presto entrerà in zuccherificio», aveva risposto lei, tranquilla, senza nemmeno lasciarsi sfiorare dal dubbio che David, uno studente, un figlio di signori, e non importa se in ritardo con la laurea e se in rotta con la famiglia, in zuccherificio non sarebbe entrato mai. Un operaio, figuriamoci. E tuttavia, quale era la cosa a cui sembrava che David aspirasse di più, se non quella di diventare un operaio qualsiasi? Non lo ripeteva di continuo. Bastava che parlasse, in realtà, e tutto allora diventava semplice, facile, possibile. Sposarsi. Lui il matrimonio l'aveva sempre considerato una buffonata, era capace di cominciare a dire, una delle più tipiche e nauseanti pagliacciate borghesi. Visto però che alle nozze lei in fondo ci teneva, soggiungeva subito sorridendo, stesse tranquilla, al massimo dentro un anno. Quando lui avesse trovato lavoro, la posizione in municipio, avrebbero senz'altro potuto regolarla. Sicuro, lui l'avrebbe sposata, non aveva nessuna difficoltà a prometterglielo. Messo di fronte alla sua più che legittima e comprensibile aspirazione di risultare finalmente sua moglie, la sua signora anche davanti alla legge, non soltanto non si tirava indietro, ma anzi avrebbe fatto del suo meglio perché i tempi di tutta quanta l'operazione fossero magari accelerati. I pomeriggi, quei torridi pomeriggi estivi, li passava in genere disteso, quasi sempre dormendo. Il suo respiro era così lento, così pallida la sua guancia sotto una barba di parecchi giorni, che lei, talvolta seduta accanto al suo letto, esattamente come adesso accanto al letto di sua madre, non resisteva alla tentazione di prenderlo per un braccio, di dargli una strattonata. «Cosa?» bofonchiava lui con le palpebre che non ce la facevano ad aprirsi. Quindi, giratosi dal lato del muro, la giacca del pigiama dietro appariva tutta intrisa di sudore, tornava a sprofondare nel suo sonno. Non appena cenato, di solito uscivano. In cerca di un po' di refrigerio, avevano preso l'abitudine di far venir tardi a Portamare. Quel chilometro piuttosto abbondante che separava il palazzone da Portamare valeva la pena di affrontarlo. Poco oltre la barriera del Dazio c'era un chiosco di gelati con davanti una decina di tavolini, e i gelati, fino da bambina, come sapeva anche David, le erano sempre piaciuti moltissimo. A prendere per via Fossato di Mortara si arrivava sulle mura in pochi attimi. Era stato appunto lassù, in cima ai bastioni, che lei una di quelle sere aveva smesso a un tratto di camminare. «Senti, credo proprio che avrò un bambino», aveva detto con molta calma, posando una mano sul braccio di David. Sul momento lui non era sembrato sorpreso. Nessun gesto da parte sua, nessuna parola. Poco più tardi, tuttavia, dopo che avevano raggiunto il solito chiosco e lei stava lì col petto appoggiato contro l'orlo del banco di zinco e con gli occhi abbagliati dalla luce della lampada ad acetilene, le aveva chiesto gentilmente: «E tu come lo vuoi? Di limone o di cioccolata?» Senza accennare a sedersi, lui il suo gelato, un misto come sempre di crema e panna, aveva già cominciato a leccarlo. Ma pareva triste, deluso. Leccava e intanto la guardava. La squadrava da capo a piedi. «Stasera fa un caldo piuttosto insopportabile», aveva esclamato a un certo punto sbuffando. «Figurati che su in montagna appena fa notte debbono mettere i maglioni». Si riferiva alla sua famiglia, evidentemente, che dai primi di luglio si era trasferita a Cortina da un pezzo. «Dov'è che sono andati a stare i tuoi?» lei aveva trovato la forza di chiedere. Leccava anche lei il suo gelato, ormai decisasi una volta di più per quello di cioccolata. «In una casa. No, al Miramonti. Immagina una specie di castello, si era messo subito a spiegare, con intorno un bosco che sarà grande 6 o 7 volte il parco di casa Finzi Contini, quello là in fondo ai Piopponi, sai, giusto sotto la mura degli Angeli, e almeno una dozzina di volte il Montagnone. Chi era David? Che cosa cercava? Che cosa voleva? Perché? Queste domande non c'era risposta, non ce ne sarebbe stata mai. D'altronde era tardi. Qualcuno, probabilmente Oreste, stava bussando ai vetri. Bisognava alzarsi, spingersi magari fin sulla soglia del portone di strada, dirgli che poteva rientrare. Infatti era Oreste. Dopo aver raggiunto le vicine giù nel portico, per una buona mezz'ora Oreste era rimasto a parlare con le donne dell'accaduto e soprattutto ad ascoltarle. Ma poi il crocchio si era trasferito in strada e disperso, e lui, ormai solo, aveva cominciato a camminare avanti e indietro, dinanzi al portone. Sentiva urtarsi dentro se stesso 2 sentimenti opposti, 2 contrastanti necessità. Da un lato gli premeva di correre a chiudere bottega, e ciò per poter subito provvedere con la dovuta diligenza a quanto la morte di Maria Mantovani imponeva. Il pensiero di Lida bastava però a trattenerlo. Più volte, chinandosi e accostando il viso alle lastre appannate della finestra, aveva tentato di guardare dentro la stanza. Laggiù, a fianco del letto di destra, distingueva una piccola figura curva, grigia e immobile. «Cos'è che fa?» borbottò a un certo momento con impazienza affettuosa già da marito. Scendevano le prime ombre della sera. Aveva smesso di nevicare, ma il freddo mordeva. Dalle finestre delle case attorno trapelavano interni di cucine, di tinelli illuminati. Bisognava spicciarsi, concludere qualcosa. Infine, quando si fu chinato un'ennesima volta a scrutare nella stanza, troppo buio, constatò, non c'era più niente da vedere, si decise a battere ai vetri con le dita. Stette quindi in ascolto, il cuore che gli pulsava sordamente nel petto, finché non gli parve di udire il passo di Lida su per la scala interna. A questo punto fu svelto a infilare il portone. Un attimo avanti che lei abbassasse la maniglia e aprisse, si trovava già in cima al pianerottolo. Immediatamente, al primo sguardo, si accorse di aver ripreso il sopravvento. Il dorso appoggiato allo stipite della porta e abbandonando gli occhi nei suoi, Lida lo fissava. In silenzio, che lui la proteggesse. Nell'atteggiamento di lei non c'era altra richiesta. «Dio santo, non vorrete mica passare tutta la notte così?» disse sottovoce, in dialetto, quasi con ruvidezza. Poi, sempre bisbigliando e senza varcare la soglia, cominciò a esporle quello che intendeva fare. Lui doveva correre via a chiudere bottega e siccome dopo qualche altra piccola cosa bisognava pure sistemarla, non sarebbe stato di ritorno che fra un paio di ore almeno. Prima di passare da bottega, tuttavia, si sarebbe fermato un minuto a casa di una delle vicine, la signora Bedini. Dato che era stata proprio questa Bedini a mettersi a disposizione, le avrebbe chiesto senz'altro di venire. «A fare che?» esclamò, prevenendo una possibile obiezione da parte di Lida. «Diamine, a farvi compagnia, a farvi un po' di cena, oppure magari soltanto per pregare». Alla parola «cena», Lida aveva scosso il capo in segno di diniego, ma l'argomento successivo fu più forte di ogni sua resistenza. Chinò gli occhi e lui la guardò sorridendo. «Dunque mi raccomando, ammonì, non state a chiudere la porta col catenaccio, anzi lasciatela socchiusa. Intesi?» E strettale la mano, sparì di corsa giù per la scala. Thank you. Durante la notte la temperatura precipitò. La tenue luce rosa che l'indomani mattina si fece strada a fatica attraverso i vetri incrostati di ghiaccio. Lida si era distesa sul suo letto, la Bedini si era appisolata su una seggiola, mentre Oreste, che aveva pregato per lunghi tratti della notte, stava in piedi presso la finestra, scrutando il tempo. Era una luce proveniente da un sole distante, perduto in un cielo d'un azzurro vago, nebbioso, un sole che non scaldava. In quel momento, calcolava Oreste, mentre il bavero del cappotto rialzato sulla nuca fitta di corti capelli d'argento soffiava adagio nelle dita intirizzite, in quel momento il termometro doveva segnare molti gradi sotto zero, 10, 15, 20, chi lo sa. Ciò comunque avrebbe reso il tempo stabile. Nel corso del gennaio, e magari della prima metà di febbraio, il freddo avrebbe toccato punte anche più basse, per modo che l'inverno, durante il quale i canali della campagna, il Reno e addirittura il Po sarebbero gelati, le tubature dell'acqua da bere sarebbero scoppiate, eccetera, eccetera, sarebbe alla fine risultato paragonabile soltanto a quello del 1903. Ne avrebbe sofferto l'agricoltura? Forse no. Lui, ad ogni modo, si sentiva piuttosto contento. Non provava il minimo imbarazzo ad ammetterlo. Contento per il fatto di avere indovinato esattamente ogni cosa. I funerali di Maria Mantovani si svolsero nel tardo pomeriggio dello stesso giorno. Il carro di terza classe avanzava scorrevole sulla neve battuta e dietro, oltre al prete e a un piccolo chierico, camminava il solo Oreste. Docile al suo consiglio, Lida era rimasta a casa. Quanto a lui, l'antico seminarista prediletto da Don Castelli, l'ex soldato del Carso, tutto quel rigore di clima gli infondeva energia. Gli restituiva per incanto le ore di sonno perdute la notte precedente. Camminava a occhi bassi. Con l'andatura che gli si regolava distinto su quella del prete, non smetteva mai di fissare i solchi impressi nella neve dalle ruote alte e sottili del carro, le piccole frane di neve che, staccandosi via via dai cerchioni, infarinavano appena la lucida nera vernice dei raggi e delle balestre. Tornò che era già notte, e dalla strada, anziché bussare ai vetri come nei giorni passati, volle farsi precedere dalla forte scampanellata che era soltanto sua. Lida lo attendeva in fondo alla scala. Doveva aver dormito. Infatti il suo viso, prima segnato dalla stanchezza, adesso appariva fresco, riposato. Si era cambiata completamente. Sedette al suo vecchio posto, appoggiando le braccia conserte sul tavolo e guardando intanto Lida affaccendata attorno alla stufa economica. Non ne perdeva un gesto. La osservava con l'espressione tutta particolare, mista di intima gioia e di gratitudine, che sempre affiorava dai suoi occhi ogni qualvolta credeva di scoprire in una frase, in un gesto, in un semplice sguardo di lei, studio e desiderio di piacergli. «Per stanotte sarà meglio chiamare di nuovo la Bedini», disse a un certo punto. «Bisogna che ci passi più tardi. Domani ho in mente di presentarmi da Don Bonora. Penso che il ragazzo il prossimo paio di settimane dovrebbe venire a dormirle a casa. In seguito vedremo». Ormai era lui che decideva, che disponeva del futuro. Dopo cena, separati dal tavolo ancora da sparecchiare, rimasero lì, a discorrere. Restringendosi a Maria Mantovani e alla sua vita, Oreste ne parlò a lungo e con estrema dolcezza. Disse che nel corso della sua esistenza aveva sofferto tanto, poveretta, proprio perché aveva molto amato, proprio perché aveva avuto troppo cuore. Descrisse infine il luogo del camposanto comunale dove l'indomani mattina l'avrebbero sistemata. Si trattava di un posto veramente bello, assicurò, da signori. Non l'aveva ancora mica vista lei, l'arcata di costruzione recentissima che partendo dal fianco destro della chiesa di San Cristoforo e descrivendo una gran curva uguale identica a quella dell'arcata adiacente a via Borso, era venuta a completare anche dalla parte della Mura degli Angeli il porticato anteriore della Certosa. Ebbene, sua madre sarebbe stata sepolta appunto là, sotto quegli archi nuovi. «No, no», ribadì. «Rivolto a mezzogiorno col sole quindi che ci batteva dall'alba al tramonto come in una serra, il posto era senz'altro magnifico». «Certo è che i loculi da quel lato», aggiunse dopo una pausa e piegando le labbra, «vengono a costare abbastanza salati». Ma subito, temendo evidentemente di essere stato frainteso, precisò che per carità lei, Lida, non doveva in alcun modo preoccuparsi per la spesa. «In tanti anni di lavoro», esclamò, «qualcosa, grazie al cielo, l'ho pur messa da parte». «E siccome lei, proseguì senza riuscire a padroneggiare un lieve tremito delle labbra. Gli aveva fatto sperare, gli aveva fatto credere, e considerando inoltre che questo avrebbe di sicuro resa contenta la sua povera mamma. Insomma, quello che è mio fa conto fin da ora che sia anche tuo, concluse abbassando la voce. Chino un poco in avanti, la guardava fissamente negli occhi. Era la prima volta, fra l'altro, che le aveva dato del tu. Infine si alzò in piedi e, congedandosi in fretta, promise che sarebbe tornato la mattina dopo. Ne avevano talmente tante di cose da dirsi. Era la quarta puntata di Lida Mantovani di Giorgio Bassani, letta da Valentina Carnelutti per Ad Alta Voce, programma di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone, programma da scaricare in podcast puntata dopo puntata da adaltavoce.rai.it. Ricordate che l'album della settimana di Fahrenheit, devo dire che ha avuto anche ottime accoglienze da parte di chi ci ascolta, è What Was Said, da parte del Tord Gustafsson Trio. Il brano di oggi, che è il penultimo della settimana, si chiama Rule.